La bambina che parlava i libri di Stefano Benni. C'era una volta una bambina che era nata in una città del nord, in riva a un fiume. Era una bella città, ma un po' fredda e grigia. Alla bambina perciò piaceva vestirsi di colori vivaci, arancione, rosa, fucsia. Faccio la gara con i fiori, diceva. Era ribelle e sognatrice, per questo i grandi la trovavano un po' strana. Le piacevano le feste e stare in compagnia, ma ogni tanto si appartava in solitudine, come se avesse un segreto. E in effetti il segreto c'era. La bambina sentiva delle voci che nessun altro poteva udire. Voci flebili, affettuose, una specie di richiamo. Le sentiva soprattutto quando andava a dormire, finché una notte si alzò dal letto e capì da dove venivano. Venivano dalla camera del nonno, che era chiusa da quando lui se n'era andato. Dentro alla camera c'era un'antica biblioteca. Una notte la bambina sentì che le voci chiamavano il suo nome. Vide sul soffitto della camera un riflesso rosso, come un incendio. Non lo sapeva, ma stava sognando. Nel sogno uscì di casa e in una piazza della città bruciava un enorme rogo di libri. Le pagine incenerite volavano nell'aria come minuscole farfalle nere. C'erano soldati dappertutto. Riconobbe una scena che il nonno le aveva raccontato tante volte, accaduta quando lei era molto piccola. Perché lo fanno? Chiese la bambina alla gente che circondava il fuoco, ma nessuno rispose. Vai via da lì, piccola impicciona! La sgridò un soldato. Ma lei non riusciva a distogliere gli occhi dalle fiamme, anche perché sentiva una voce, stavolta chiara e forte, che diceva: Aiutami! La voce proveniva da un libro annerito e fumante che era caduto dalla catasta in fiamme in mezzo alla strada. Certo che ti aiuto, rispose la bambina. Adesso ti spengo e ti salvo. No, disse il libro con un filo di voce. Ormai le mie pagine sono quasi tutte bruciate, non si possono più leggere, ma c'è un altro modo per salvarmi. Devi trovare un mio simile, un fratello che abbia il mio stesso titolo e la stessa copertina. Trovalo, mettilo in salvo. Così tutti potranno leggerlo e questo riporterà in vita anche me. Prometti che lo cercherai. Promesso, disse la bambina. Si avvicinò, cercò di prendere il libro in mano, ma scottava troppo. Però vide bene il titolo, l'autore e la copertina verde. Il soldato arrabbiato le gridò qualcosa e lei si svegliò. Si accorse che aveva lasciato dei calzini sulla stufa e si erano un po' bruciacchiati, lo stesso odore del sogno. Si alzò e corse in cucina. La mamma stava leggendo un libro di ricette. Mamma chiese: Si può parlare con i libri? No, figlia mia, con i libri non si parla, i libri si leggono. Ma come sei strana? Sei tutta rossa in faccia. La bambina non raccontò il sogno a nessuno, ma da quella notte sentì le voci sempre più spesso. Se camminava davanti a una libreria, udiva un coro di saluti e quando incrociava qualcuno che leggeva su una panchina, dalle pagine risuonava un: Come va, piccola? Stava attenta a ogni libro che incontrava, ma non vide mai quello con la copertina verde. Però non scordava la sua promessa, finché una notte sentì provenire dalla camera del nonno una voce più forte delle altre. So che mi stai cercando, diceva. Sono qui, sono qui. La bambina sapeva dov'era la chiave della camera e aprì con cautela la vecchia porta. Il buio, l'odore di inchiostro, la polvere la accolsero, c'era un gran silenzio. Ma quando accese la luce, sentì un coro festoso di voci. Erano i libri, contenta che lei fosse venuta a interrompere la loro solitudine. Da ognuno usciva una voce e un richiamo differente. Da un libro di mare usciva un rumore di onde. Da un romanzo d'amore una musica e uno schioccare di baci. Da un poema greco la voce tonante di una divinità. Da un manuale di entomologia canto di grilli e di cicale. Da un racconto di guerra spari e grida e così via. Quanti libri e quanto fracasso, pensò. Come farò a trovare il libro che cerco? Non era facile. Nel coro confuso le sembrava di sentire qualcuno che diceva: sono qui, guarda in su. Ma quella voce si perdeva in mezzo alle altre, finché si accorse che le pioveva in testa. Ma non era acqua, erano gocce di inchiostro, letterine nere, le parole di una pagina. Quella strana pioggia veniva dallo scaffale più alto, dove era ben visibile un libro con la copertina verde. La bambina soffriva un po' di vertigini, ma vinse la paura. Con una scala di legno raggiunse il punto più alto della biblioteca e dall'ultimo scaffale prese il libro. Era proprio uguale a quello che aveva visto bruciare nel sogno. Grazie, disse il libro, tienimi con te. Leggimi e fammi leggere, sarò il tuo amico magico e ti accompagnerò per tutta la vita. Quella notte la bambina mise il libro sul comodino e tornò sotto le coperte, ma sentiva che le pagine crepitavano e frusciavano, come se il libro fosse agitato. «Cosa c'è?» gli chiese. «Non ti interessa conoscere la mia storia, il mio segreto? Sono anni che non parlo con nessuno.» «Certo, raccontami.» La bambina ascoltò, o forse sognò. «Vedi, anche noi nasciamo con un destino, proprio come voi umani. Molti libri nascono ricchi, in pochi esemplari ben rilegati e illustrati, costosi e tenuti in bell'ordine, ma non sempre letti. Altri nascono con migliaia di fratelli e sorelle e invadono con le copie le librerie e le biblioteche. Talvolta hanno le pagine stropicciate a furia di essere usati. Se sono scritti bene, rimangono nella storia della letteratura. Se sono scritti male, cadono in fretta nell'oblio perché non erano belli, ma solo di moda. Io appartengo a una piccola famiglia, eravamo non più di 100. La nostra autrice era una poetessa che neanche avrebbe voluto pubblicare le sue opere, ma era stata convinta da un editore che la stimava. Come vedi, sono un libro vecchio stile, con la copertina di cartoncino, e la mia carta non è di grande qualità. Quando venne alla luce, pochi si accorsero di me, ma qualcuno comprò una copia in libreria, trovò le poesie bellissime e lo disse agli amici. La voce sulla bravura dell'autrice cominciò a diffondersi. Io vivevo allora con un fratello in una vecchia libreria del centro, con tanti gatti che ci passeggiavano sopra e si grattavano la schiena sulle nostre coste. La libreria era gestita da un anziano signore che vendeva anche libri antichi. Conobbi libri di 500 anni, volumoni in pelle e pergamena che tossivano per la polvere e ci chiamavano giovanotti. Parlavano sempre dei bei tempi andati e di come erano le tipografie di una volta, e spesso erano anche un po' noiosi. Un brutto giorno entrò nel negozio un caccialibri. I caccialibri perlustravano le librerie cercando volumi che criticavano il governo e avevano sempre in bocca una parola che è il terrore di ognuno di noi: censura. Censura è quando qualcuno decide di impedirti di leggere quello che vuoi. L'uomo si aggirò tra gli scaffali con aria severa, poi notò il libro Mio fratello, lo aprì e lesse qualche poesia. Certo, non erano inni di guerra, ma denunciavano la poca libertà di parola di quei tempi e la rozzezza culturale di chi comandava. Erano piccole poesie, libere e fiere. «Le sequestro subito questo libro», disse il caccialibri. «È proibito mettere in vendita questa robaccia. Mi consegni tutte le copie che ha». Il vecchio libraio dovette consigliargli mio fratello, non prima però di avermi nascosto dentro un enorme vocabolario. Rimasi un po' schiacciato, ma mi salvai. Nel tuo sogno del rogo hai visto la fine di mio fratello portato via dal caccialibri. Passarono gli anni e tutti gli altri esemplari della mia famiglia sparirono, mandati al macero per diventare poltiglia di carta o dimenticati in qualche soffitta. Ahimè, la mia specie si stava estinguendo. Io finii in una bancarella di libri usati, insieme a fumetti e cartoline. Ma un professore, chiamiamolo un salvalibri, si mise a cercare quella poetessa di cui aveva tanto sentito parlare e un giorno mi trovò sulla bancarella. Mi comprò e mi tenne con sé e scrisse subito un articolo sulla mia autrice. Così, dopo anni di oblio, la poetessa fu riscoperta e il titolo venne ristampato con una bella copertina lucida e la prefazione di un importante critico. La poetessa era ormai una vecchietta decrepita, fu contenta, ma non si montò la testa. Vendette un po' di copie e con quel gruzzolo si comprò una dentiera. In questo modo tornò finalmente a sgranocchiare torroncini alle mandorle di cui era golosa. Adesso è morta. Ma poiché i libri vivono più di coloro che li hanno scritti, le sue poesie sono ancora lette e amate. Come vedi da questo numerino qui in basso, io non sono una ristampa, faccio parte della prima edizione, forse sono l'ultimo esemplare rimasto. Quando il professor Salvalibri morì, lasciò tutti i suoi volumi in eredità al suo migliore amico. Forse lo hai già capito, il suo migliore amico era proprio tuo nonno, che amava i libri vecchi e strani. Ma poi anche tuo nonno volò nel paradiso dei lettori. Da allora la sua camera è chiusa, solo ogni tanto tua madre entra per spolverare la biblioteca, ma lei non sa parlare con noi. Io sarei rimasto prigioniero per sempre se tu non mi avessi trovato. E non faccio per vantarmi, ma devi sapere che sono un esemplare un po' speciale. Se guardi bene, nella seconda pagina c'è una de dedica a penna al mio amato G. È la calligrafia della poetessa, dunque io sono la prova di un grande amore della mia autrice. Ogni libro contiene la storia di coloro che lo hanno letto, per questo è unico e magico. Ora tu sei la custode del segreto. Che bella storia, disse la bambina. Adesso però dormiamo. La bambina era cresciuta e frequentava una scuola assai severa. Aveva molti libri di testo da studiare, alcuni le piacevano, altri no. Parecchi nemmeno le parlavano, restavano muti, altri sbadigliavano, altri ancora urlavano con rabbia: studiami! Due libri di poesia litigavano. Sono meglio io, leggi me. No, lui è un poetastro, scegli me. Allora capì che non riuscivo a parlare con tutti i libri, solo con quelli che la interessavano. Fece amicizia col vocabolario, ma quando il libro di matematica le recitava sfilze di numeri faceva finta di non sentire. Anche se lo studiava, non faceva mai conversazione con lui. Alla bambina piaceva tanto conoscere libri nuovi, romanzi, poesie, racconti. Andò nella biblioteca della città. Era mille volte più grande di quella del nonno e appena entrò, dagli altissimi scaffali e dai corridoi venne un rumore di pagine che frusciavano, come quando c'è il vento nel bosco. Quando poi si avvicinò al settore dei romanzi, si alzò un boato e lei si sentì una giocatrice di calcio che entrava in uno stadio. Tutti volevano parlarne, ma lei non poteva dare retta a tutti. Col tempo divenne sempre più brava a parlare con i libri. Ci si tuffava dentro con tutta l'anima. Una volta resse un romanzo russo pieno di paesaggi nevosi e le venne il raffreddore. Un'altra volta ne lesse uno che parlava di navi e balene e quando tornò a casa la mamma le disse: «Ma dove sei stata? Puzzi di pesce!» E soprattutto iniziò a distinguere le voci degli scrittori e delle scrittrici. Le piaceva guardare i loro volti nelle fotografie. Un giorno pensava anch'io li conoscerò e li fotograferò. Parlando con loro si accorse che c'erano alcuni scrittori più simpatici delle cose che scrivevano e altri più noiosi delle loro opere, altri ancora che assomigliavano moltissimo alle loro parole. Passò un po' di tempo. La bambina si preparava a un lungo viaggio e ancora non sapeva che cosa avrebbe fatto da grande. Proprio la notte prima di lasciare la sua città fece un altro sogno molto strano. Camminava nel lungo corridoio di un antico palazzo. Dai lati la guardavano severi busti di uomini barbuti. In fondo vide un portone di legno con scritte dorate che sembrava la copertina di un libro enorme. Il portone si spalancò di colpo e lei precipitò in uno spazio buio e misterioso. Quando si rimise in piedi, tastando il pavimento, trovò dei fiammiferi e una candela, la accese e scoprì di essere in una biblioteca abbandonata. Mai ne aveva vista una così grande e tetra. Polvere, ragnatele, topi che correvano sugli scaffali. E un silenzio di tomba, solo flebili lamenti e rodere di tarli. «Libri, ci siete?» gridò la bambina. «Perché non parlate?» Su un tavolo vide un librone con la barba di ragnatele che si sollevò dritto e parlò. «Siamo qui, ma stiamo sempre in silenzio. Da tanto tempo nessuno parla con noi, la biblioteca è stata chiusa. Non tutti amano i libri, alcuni li bruciano, altri li maltrattano. Qualche volta proprio quelli che in passato furono privati della libertà di leggere dimenticano quegli anni e diventano censori. E da qualche tempo in molti dicono sprezzanti, leggere non serve a niente. Così questa biblioteca, che una volta era sempre piena di lettori, è stata dimenticata. Ma non è giusto, perché? Vedi, piccola, pochi sanno ascoltare le parole dei libri come te, c'è chi le rifiuta e persino chi ne ha paura. È vero, c'è anche la legittima libertà di non leggere, persino troppa. Sappiamo che fuori di qui stanno nascendo milioni di altre parole fra televisione, computer, videogiochi, è un vero frastuono. La loro voce copre la nostra. Eppure ci sarebbe spazio per tutti. Quando il loro rumore si attenua, è bello restare soli a conversare con un libro che si ama. Ma molti adulti hanno smesso di parlare con i libri e non lo insegnano ai loro bambini. Allora diventiamo muti. E ci rassegniamo pieni di tristezza, qui nel buio polveroso, finché nessuno si ricorderà più di noi. A quel punto del sogno, la bambina prese una decisione improvvisa. Afferrò due grossi volumi e pa, crash! Li lanciò contro le finestre, rompendole. Entrò il sole, la polvere si dissolse, i libri si rianimarono mentre la luce svelava i colori delle copertine. Allora la bambina ruppe altre finestre e la biblioteca impazzì. Alcuni libri rotolarono giù dagli scaffali e con un balzo saltarono in strada. Altri volavano sbattendo le pagine. Il librone con la barba planava con quattro libretti sulla schiena. E sotto le finestre tanti curiosi li vedevano cadere in strada, li raccoglievano, dicevano: «Guarda, questo è un libro che leggevo da bambino!» Oppure: «Questo volevo proprio comprarlo!» Mentre qualcun altro commentava: «Non sanno più che cosa inventare per farsi pubblicità!» E dalle finestre i libri dicevano: «Entrate, entrate, è la giornata del libero libro, venite a prenderci!» Irruppero i soldati del vecchio sogno del rogo, gridando: «Questa biblioteca è chiusa per ordini superiori, leggere troppo fa male, la cultura non serve a niente!» Ma il libro con la barba piombò dall'alto e li schiacciò come se fossero di carta. La bambina gridò e si svegliò di colpo. Dopo questo sogno la bambina capì che cosa doveva fare. Avrebbe rotto le finestre che impedivano ai libri di volare per il mondo. Avrebbe portato i libri dappertutto e non importava se qualcuno voleva bruciarli o proibirli o ignorarli. Lei avrebbe rotto altre finestre per farli andare liberi. E ci sarebbero stati altri bambini come lei che avrebbero imparato a parlare con i libri. Un po' di tempo era passato e la bambina era diventata una donna, anzi, era diventata una regina, la regina dei libri, una grande editrice. Adesso nessuno rideva se si vestiva tutta colorata, anzi, la imitavano. Ma anche se era ormai famosa, ricordava sempre la piccola biblioteca dove aveva scoperto il mistero di quelle voci. E in tasca aveva sempre il libro del suo primo sogno. Chissà se anche voi avete un libro magico che terrete vicino per tutta la vita.